2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo su Facebook, su Twitter, ci potete raggiungere attraverso la posta elettronica 2024, scritto in cifra, 2024, @radio24.it. Questa settimana sono usciti i dati trimestrali di alcune aziende di tecnologia e ovviamente ci sono molti numeri che forniscono indicazioni interessanti. Apple e Facebook hanno registrato una trimestrale stellare con numeri record, poi dipende se questi numeri soddisfano o no gli analisti, gli investitori, perché non sempre accade ciò. Se gli analisti prevedono un dato più elevato, anche se il dato è in crescita ed è molto buono, beh, questo non poi si rispecchia nell'andamento di borsa. Comunque questo è un altro capitolo che non ci interessa. Quello che ci interessa sono alcuni numeri che ci raccontano qualcosa della tecnologia, di come la tecnologia viene venduta nel mondo. Allora, il primo dato interessante è il rallentamento della crescita delle vendite di iPhone. Allora, il tasso di crescita, perché comunque parliamo sempre di un tasso di crescita, c'è il segno più, è però il più basso da quando l'iPhone è stato lanciato sul mercato nel 2007. Allora, questo è un rallentamento che in realtà riguarda tutto il mercato, perché rileva Strategy Analytics che nel 2015 sono stati venduti 1 miliardo e 440 milioni di smartphone. Ripeto, 1 miliardo 440 milioni di smartphone. Questo è ancora un mercato incredibile, che è cresciuto del 12% rispetto al 2014. Ma nell'ultimo trimestre dell'anno il tasso di crescita delle vendite è risultato essere il più basso di sempre. Quindi stiamo pur sempre parlando di tassi di crescita, quindi se ne vendono sempre di più di smartphone, però stiamo arrivando ad un punto in cui anche nei paesi emergenti un po' stiamo toccando il punto di saturazione, cioè molti hanno uno smartphone e in presenza di novità non incredibili, non eclatanti sui nuovi terminali, beh, il tasso di sostituzione rallenta. Poi ci mettete in mezzo anche il dollaro forte, un po' di rallentamento dell'economia e altri fattori globali, e questo un po' descrive il mercato. Comunque sicuramente uno dei dati interessanti è che i nuovi smartphone non sono molto diversi rispetto a quelli di un anno fa, ad esempio. Vedremo questo 2016 che cosa ci porterà. Sicuramente sul fronte batterie è già stato presentato qualcosa di interessante, ad esempio durante il Consumer Electronics Show Huawei ha presentato uno smartphone, il Mate 8, l'ultimo prodotto che sta per uscire sul mercato anche in Europa, che ha una durata della batteria di 2 giorni, poi bisognerà provarlo e vedere se questo corrisponde anche ad un utilizzo normale, però sul fronte batteria quest'anno è un anno interessante. Per quanto riguarda Facebook, la piattaforma ha toccato quota 1 miliardo 590 milioni di utenti. Allora, di questi 1,44, cioè 1 miliardo e 440 milioni, hanno usato il servizio su uno smartphone. Non è detto che l'abbiano fatto solo su smartphone, però hanno utilizzato una piattaforma mobile. L'80% della raccolta pubblicitaria arriva da terminali mobili. E questo al di là di come si comporta Facebook molto bene sull'ambiente mobile, ci dice molte cose sul fatto che gli utenti utilizzano sempre più e prevalentemente in alcune fasce d'età, in alcuni mercati e in alcuni momenti della giornata lo smartphone o comunque un terminale simile allo smartphone, che sia magari un tablet o un phablet, come si dice, cioè questi prodotti che hanno uno schermo molto grande, che sono uno smartphone ma di fatto insomma sono grandi come un tablet, quasi come un tablet. E questo potrebbe, insomma, questa è un'indicazione utile per tutti coloro che in qualche modo lavorano in questo ambito. Mobile, mobile and mobile, cioè bisogna andare lì. Invece, anche se questo è un messaggio che abbiamo dato tante volte, più volte, ci sono ancora un sacco di servizi che non hanno, pensate, il sito mobile. E questo è un problema. Basta andare su un mezzo pubblico e rendersi conto di quanto le persone siano appiccicate a questo schermo. A proposito di miliardi, un altro dato interessante che riguarda Apple è che i terminali attivi nel mondo marchiati Mela sono oggi 1 miliardo, e quindi è un altro numero che fa impressione. Se la passa meno bene Twitter, che all'inizio della settimana ha annunciato un cambio di manager e alcuni prendono un po' in giro Twitter dicendo che ormai l'attività principale è quella di cambiare manager. Ha cambiato 5 manager di prima linea e quindi molti si domandano che cosa stia accadendo, visto che non sono i primi e sicuramente non saranno nemmeno gli ultimi, perché gli attuali vertici hanno annunciato altri cambiamenti. Avevano annunciato altri cambiamenti anche nelle modalità con cui si usa Twitter, e uno dei nodi sul futuro di questo social network è cambiare senza snaturare questa piattaforma. Comunque stiamo parlando di un social network molto noto, molto famoso, perché lo utilizzano anche grandi personaggi, molti politici ad esempio usano Twitter per comunicare, quindi è molto noto, ma stiamo parlando però di un mezzo che non è utilizzato come Facebook. Facebook ha grosso modo 1,6 miliardi, quindi 1,6 miliardi di utenti, Twitter poco più di 300 milioni, quindi stiamo parlando di una quota molto molto molto più bassa. Digital News. Digital News. La Guardia di Finanza ha sequestrato 10 siti in Italia e ordinato l'oscuramento di altri 5 all'estero che mettevano online copie digitali di molti quotidiani. Per almeno uno dei siti, le Fiamme Gialle hanno stimato in circa 40.000 euro annui i ricavi da pubblicità. Magari pubblicità erogata tramite piattaforme, tramite network, che nemmeno sapevano che su quel sito c'era materiale utilizzato illegalmente. Questo è uno dei problemi, se vogliamo, di questi network pubblicitari che si infilano dappertutto e a volte senza un controllo preciso della destinazione. Digital News. Ancora alcune novità sul digitale terrestre televisivo. Da sabato 30 gennaio Sky TG24 passa sul canale 50 al posto del canale LAF, che invece va e si ritira sul satellite, sulla piattaforma Sky, perché economicamente non è che se la passano benissimo. Dal 27 febbraio arriverà invece sul canale 27 al posto di Sky TG24 il nuovo Paramount Channel, quindi film e serie TV. Digital News. Un software sviluppato da DeepMind, che è la divisione di Google che studia applicazioni di intelligenza artificiale, ha battuto il campione europeo di Go. Si tratta di un antico gioco a me sconosciuto fino a qualche giorno fa, un antico gioco da tavolo cinese con regole particolarmente semplici ma un numero di mosse possibili quasi infinito. E quindi c'è chi dice, tra gli esperti di intelligenza artificiale, c'è chi dice che è un risultato sicuramente molto importante nello step di sviluppo di macchine intelligenti. Digital News. La crescita degli utenti e l'adeguamento delle norme europee spinge Facebook ad aprire un nuovo data center in Europa. Dopo quello inaugurato 3 anni fa in Svezia, ne verrà aperto un secondo in Irlanda, alla periferia di Dublino. L'investimento è di 200 milioni di euro, l'apertura è prevista entro l'inizio del 2018. Si tratta del 6° data center nel mondo per Facebook. Da un po' di tempo non parliamo dei progetti, vari progetti, varie idee che ci sono in Italia per la diffusione della banda larga, anche perché non ci sono grandissime notizie. I nostri ascoltatori ricorderanno che abbiamo annunciato, avevamo detto che contavamo di avere presto una persona di Enel per parlare dei progetti di Enel, che ha lanciato una società per la distribuzione della fibra ottica. Allora, tutti i progetti si sono un po' rallentati, tant'è che i vertici di Enel proprio pochi giorni fa, in occasione del lancio del nuovo logo e di altre novità che riguardano l'azienda, hanno detto che il piano industriale di Open Fiber, che è questa nuova società, verrà presentato in tarda primavera. Speriamo che poi non tardi ancora. Effettivamente ci sono tutta una serie di tasselli da mettere a posto. Direi che nel momento in cui arriverà il via libera definitivo dell'Unione Europea, della Commissione Europea al progetto nazionale del governo che finanzia la diffusione, cioè la costruzione di reti, soprattutto in zone a fallimento di mercato, beh, quello potrebbe essere un punto importante. Vedremo e seguiremo da vicino questa evoluzione. Adesso parliamo di turismo e di come la digitalizzazione dell'esperienza può essere un'opportunità per tutto il sistema. Ne abbiamo parlato altre volte, sappiamo benissimo che molta parte di quello che noi facciamo quando ci trasformiamo da cittadini semplici a turisti lo facciamo online. Prima di partire, pensate alla prenotazione dell'aeroplano, dell'hotel, anche della documentazione che noi facciamo su internet per sapere che cosa andare a visitare oppure per prenotare tante altre cose. Ecco, se chi offre servizi turistici riesce a intercettare quell'attenzione che i turisti hanno su internet, si può trasformare il business offline in business online. Peccato che buona parte di questa fetta di business negli ultimi tempi se la siano presa alcune piattaforme globali che non sono italiane, e questa è sicuramente una gran fetta di valore che se ne va in altri paesi. Pensiamo ad esempio al mondo degli hotel. Nessuno mai è riuscito a creare una piattaforma italiana in un paese che invece ha tantissimi decine di migliaia di hotel. Quello è un pezzo del business che se ne va. Però ci sono opportunità e ci saranno opportunità anche in futuro. Adesso raccontiamo quello che sta facendo da un paio di anni Musement. È scritto Musement, è un'applicazione sostanzialmente che va utilizzata sullo smartphone, molto interessante perché al di là di questa esperienza ci racconta quello che è possibile fare digitalizzando l'esperienza turistica. Io avevo appuntamento la settimana scorsa con Alessandro Petazzi, che è l'amministratore delegato di Musement, nonché uno dei fondatori, ma al nostro appuntamento si è sostituito qualcosa di più importante. Infatti Alessandro mi ha scritto dicendo: guarda, ho un impegno istituzionale, non posso dire di no, poi non ti posso dire ancora nulla, lo scoprirai adesso. Infatti poi ho scoperto che era arrivato a Roma Tim Cook, e Musement è stata una delle 5 applicazioni che Apple ha scelto per rappresentare il mondo degli sviluppatori italiani in occasione appunto della visita di Tim Cook a Roma. Ma sì, è stata una cosa abbastanza sorpresa anche per noi. Ci hanno contattato quelli di Apple mercoledì per dirci che venerdì ci sarebbe stato questo incontro a Roma, alla presenza appunto del Presidente del Consiglio e del loro amministratore delegato in visita in Italia, per la notizia che gli ascoltatori avranno sentito sull'apertura del primo Development Center di Apple in Europa, che viene aperto a Napoli. E quindi è stata l'occasione per Apple di selezionare 5 società italiane che secondo loro hanno fatto particolarmente bene nell'App Store e presentarle a Tim Cook. E quindi è stata questa occasione sicuramente interessante. Quindi Tim Cook ha scoperto, forse li riconosceva già, Musement. Per chi non la conosce, magari non l'ha ancora utilizzata, che cos'è questa app? Ma ti dico quello che ho detto a lui in supersintesi, cioè che ci sono 1000 app per prenotare voli, 1000 app per prenotare alberghi, ma alla fine quando si torna da una vacanza non ci si ricorda di sicuro il volo, forse ci si ricorda l'albergo se è particolarmente bello, di sicuro ci si ricorda quello che si è fatto. Per tutto quello che si fa quando si è arrivati nella destinazione scelta non esiste un'app di riferimento, quindi per avere informazioni, raccomandazioni e possibilità di prenotare, dalla visita turistica ai biglietti delle attrazioni turistiche, al ristorante, al concerto, alla mostra d'arte, tutto quello che mi può interessare, esistono 1000 servizi molto frammentati. Le informazioni le posso recuperare dalle classiche guide turistiche, ma poi come prenoto mi riferisco al concierge del mio albergo, chiedo agli amici. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere insieme tutto questo in un'app, la parte di informazioni, una parte di raccomandazioni personalizzate per te e poi la possibilità di prenotare qualunque cosa ti possa interessare. Questo in oggi circa 300 città nel mondo. Ecco, infatti volevo arrivare anche al punto della internazionalizzazione. Voi siete un'azienda italiana, siete già un'azienda strutturata, siete in 50. Noi siamo oggi nella sede di Musement a Milano. In quali paesi, cioè quali sono i vostri consumatori? Ma allora, diciamo che si distinguono due cose. Dove abbiamo un'offerta più capillare, quindi più attività prenotabili, più informazioni, più raccomandazioni, e direi che questo è soprattutto oggi l'Europa continentale. Stiamo cominciando in questo periodo a espanderci negli Stati Uniti, America del Sud e Asia, ma ad oggi è soprattutto Europa continentale. I nostri clienti sono quindi in primis europei e americani che viaggiano verso l'Europa. questo ad oggi. Facciamo un esempio di un'esperienza di un consumatore che arriva in Italia, visto che conosciamo noi come ascoltatori, conosciamo molto bene il nostro paese, ipotizziamo un tedesco, un americano che arriva utilizzando la vostra app, che cosa può fare in una città? Prima, durante, dopo magari solo per ricordarsi, però prima e durante la visita. Ma direi che la grossa differenza tra il prima e il durante la visita è nel meccanismo di ricerca rispetto al meccanismo di scoperta, ovvero quando io sono magari un tedesco, un americano, che so che tra 2 mesi andrò in Italia, siccome so che il mio tempo sarà limitato e che voglio avere il massimo della mia visita, mi organizzo e cerco tipicamente i grandi classici. Quindi se io so da Detroit che sto per andare a Roma, probabilmente su internet cercherò il Colosseo, i Musei Vaticani, queste cose. E lì noi ci siamo e quindi diamo la possibilità di prenotare in anticipo biglietti o visite guidate di queste attrazioni turistiche chiave. Quello che cambia è che quando invece sono arrivato poi in destinazione, allora lì l'app mi propone delle cose che non necessariamente sono i grandi classici, ma sono anche quelle gemme nascoste che invece solo i locali conoscono. Tant'è vero che il nostro posizionamento è in inglese local wherever you go, che abbiamo tradotto in italiano come vivi ogni città come se fosse la tua. Quindi l'obiettivo è di darti sì i grandi classici, perché sennò non saremmo credibili se non avessimo quelli, ma anche delle chicche un po' più particolari. Quindi bisogna conoscere le città e quindi dovete avere una parte editoriale, cioè molte persone che scrivono contenuto pensato, ragionato, sia qui nella vostra sede principale a Milano, ma anche in giro per il mondo. Sì, infatti abbiamo sia un team editoriale abbastanza corposo qui a Milano, composto da gente che viene dalle destinazioni che copriamo. Infatti dico spesso che siamo una micro multinazionale, perché abbiamo 50 persone e 13 nazionalità rappresentate in ufficio, quindi una nazionalità ogni 4 persone, non so se è un record, ma quasi. E poi abbiamo una serie invece di collaborazioni con persone poi in loco. Senti, come fate i soldi? Molto semplice, modello di business molto molto semplice. Ogni cosa che viene prenotata sul nostro sito, sulla nostra app o anche tramite siti partner a cui diamo le nostre attività, una percentuale di questo rimane a noi. Quindi siamo di fatto un canale distributivo poi alla fine. E tutto quello che io trovo nell'app su Musement è prenotabile? Ad oggi quasi tutto. Rimangono fuori ad oggi alcuni ristoranti e anche posti, voglio dire, nel momento in cui suggerisco le 5 migliori gelaterie è chiaro che lì non c'è niente di prenotabile, no? Nel senso, la gelateria non la prenoto, però diciamo tutto quello che concettualmente può essere prenotabile lo è direttamente dall'app. Se tu guardi al vostro non so se chiamarlo partner o cliente, non so se il cliente è il turista, chi è il cliente vero per voi? Sì, questa è una domanda che ogni tanto ci facciamo anche noi, nel senso che il cliente tipicamente poi alla fine è il cliente finale, quindi il viaggiatore, il turista. È pur vero che chi ci dà a disposizione le sue attività, quindi voglio dire la famiglia che organizza le escursioni a cavallo in Maremma, da un certo punto di vista è un partner, un fornitore, perché ci dà delle attività che poi rendiamo disponibili al cliente finale, ma potenzialmente anche un cliente, nel senso che noi gli stiamo dando un servizio che oggi viene remunerato con una percentuale su quello che poi vendiamo. In linea puramente teorica potrebbe anche essere pagato, nel senso che noi diamo la possibilità a questi signori che tipicamente non hanno una prenotabilità online, gliela diamo. Ecco, infatti la domanda è su questo e chiamiamoli fornitori. Allora, se tu guardi i fornitori dai più grandi e blasonati Musei Vaticani, la Tour Eiffel, i grandi musei internazionali, gli Uffizi, bla bla bla, ma anche le attività più piccole, i ristoranti di provincia, quanti sono già digitalizzati e quindi pronti per essere agganciati al vostro sistema? Perché se uno ha un sistema di prenotazione online, voi vi agganciate a quello e il gioco è quasi fatto. Sì, diciamo che la grossa discriminante, e anche qui non credo di dire niente di particolarmente sorprendente, sono le dimensioni. Quindi i soggetti che ricevono milioni di visitatori ogni anno evidentemente si sono già organizzati e con un loro sistema interno di prenotazione online, e quindi noi ci agganciamo a quello tendenzialmente. Invece tutti i soggetti più piccoli non hanno nulla, molte volte hanno un sito, ma nel sito loro stessi scrivono: se siete interessati mandateci una mail o chiamateci a questo numero di telefono. E noi invece con la nostra piattaforma rendiamo queste attività prenotabili sia sul nostro sito, sulla nostra app, ma potenzialmente anche sul sito del fornitore stesso. Sì, anche le realtà grandi pubbliche sono organizzate ormai? Ma diciamo che il panorama è abbastanza vario. Sono organizzate da un punto di vista della vendita online dei biglietti. Poi non sempre, anzi direi abbastanza raramente, questo purtroppo significa che uno compra il biglietto online e col suo cellulare entra direttamente senza fare la coda, come si fa per esempio ormai agli aeroporti con i boarding pass degli aerei. Ma questo non è un tema legato alla vendita online, il problema non è quello, il problema è l'infrastruttura di controllo accessi, cioè il fatto che è chiaro che se io ho ancora bisogno di stampare il biglietto a casa o di farmelo controllare a mano da una persona in loco perché, non lo so, i tornelli per esempio non leggono ancora lo schermo dei cellulari, è più quello il tema, non tanto la vendita online. Sì, Italia e altri paesi più o meno siamo simili? Sì, direi che in Europa la situazione è abbastanza simile, quindi tra Italia, Francia, Spagna non vedo grandi differenze. C'è un po' di differenza con gli Stati Uniti e l'Inghilterra, quindi i mercati anglosassoni sono anche qui, non una grande sorpresa, un po' più avanzati, però devo dire che non c'è una situazione dove da qualche parte il paradiso e noi siamo all'inferno, ecco, la distanza è più contenuta rispetto ad altre cose, il che non è, cioè voglio dire, non è che necessariamente mal comune mezzo gaudio, ecco, sicuramente è una parte dell'industria dove si può fare molto, anche perché oggi la tecnologia per appunto rendere l'esperienza di cui parlavo prima dell'aeroporto fruibile anche a qualunque attrazione turistica è una tecnologia che c'è ed è diffusa. Il traffico è maggiore anche poi proprio nella prenotazione finale sull'app dello smartphone o sul sito internet? Vediamo due comportamenti abbastanza diversi, detto che l'app nella sua versione attuale l'abbiamo lanciata a Natale 2015, quindi è anche un po' presto per trarre conclusioni, lo vedremo direi dopo la prossima stagione estiva. Però quello che abbiamo visto finora è che il sito viene usato più per quando uno ha già un'idea chiara, voglio andare lì, voglio prenotare, temo che se non prenoto non avrò disponibilità, arrivo, prenoto. L'app invece viene usata, come era anche nelle nostre idee, più come meccanismo di scoperta, fammi capire cosa c'è intorno a me, poi non necessariamente prenoto subito sull'app, magari mi serve intanto per farmi un'idea, poi magari finalizzo la prenotazione quando torno in camera in albergo e con il wifi dell'albergo mi collego con l'iPad e prenoto da lì magari, però intanto mi sono fatto un'idea. Ti faccio un'ultima domanda sul vostro business, sulla tecnologia in modo particolare, e poi vorrei affrontare brevemente il tema più vasto delle opportunità del turismo come, anche come paese, come nazione. C'è molta tecnologia, cioè ci deve essere molta tecnologia per quello che fate voi, perché immagino ci siano anche degli algoritmi che studiano o comunque capiscono i miei comportamenti e dopo un po' magari sanno che mi piace andare ad un ristorante di un certo tipo piuttosto che ad un altro. Sì, allora sicuramente c'è molta tecnologia. Detto questo, poche cose si inventano completamente da zero. La verità è che si tratta di mettere insieme tanti pezzettini che già esistono, perché voglio dire, algoritmi di raccomandazione esistono per esempio per il mondo del video on demand, Netflix, no, è un esempio di un servizio che ha fatto su questo il suo successo, quindi esistono, si tratta di adattarli a un settore in cui finora non sono stati utilizzati, e questo vale per altre tante componenti del nostro sistema. Ecco, a proposito di turismo, a che punto siamo nel percorso di digitalizzazione, quindi poi di opportunità nuove che potremo raccogliere? Ma direi che c'è ancora tanta strada da fare, sicuramente. Noi siamo partiti dal ragionamento che sempre di più il turismo sarà un turismo esperienziale. Questo è un trend, diciamo, sociologico che sicuramente c'è e che attraversa vari settori della società. 20 anni fa la felicità veniva sicuramente identificata con i beni di consumo, col possedere qualcosa, col possedere una macchina, no? Oggi come oggi negli Stati Uniti, ma in realtà anche in tanti altri mercati, sono i servizi di car sharing che la fanno da padrone, Airbnb viene visto come un'opportunità interessante rispetto alla classica camera d'albergo o anche rispetto ad avere una casa propria o comunque in affitto esclusivo. E se vogliamo, quindi questo trend da uno spostamento da la felicità e il possesso alla felicità e l'esperienza, poi che sia legata al possesso o meno è meno rilevante, è quello che stiamo noi cercando un po' di cavalcare e che secondo me è quello che dà una grossissima opportunità ulteriore al turismo, nel senso che qual è la migliore esperienza se non vivere veramente come la vivono i locali, un posto che non si conosceva, una cultura diversa, un qualcosa di sorprendente. Però tutto ciò passa attraverso internet o le app, quindi se tu guardi al panorama del nostro paese, quanti hanno già capito e quanti che hanno un'offerta turistica dal ristorante all'hotel, ma anche a tutti quelli che fanno gite organizzate, eccetera, sono digitalizzati e quindi possono poi far parte della vostra offerta? Ma guarda, io tendo ad essere un po' più ottimista rispetto alle solite previsioni catastrofistiche che si leggono in giro, nel senso che quello che vedo è un grandissimo interesse, cioè quando noi parliamo della nostra cosa raramente abbiamo come risposta no, non mi interessa, no, non capisco che questa è un'opportunità. Molte volte non c'è poi la capacità concreta, cioè non c'è, la tecnologia ogni tanto viene vista un po' come una cosa misteriosa che capisco che è un'opportunità, ma forse non fa per me perché non sono capace. Questo è un po' il feedback. Quindi credo che stia a noi, ma voglio dire a operatori come noi che invece nascono sul digitale, far capire a tutti gli operatori turistici sul territorio che in realtà la parte complessa ce la gestiamo noi e a loro dobbiamo dare un sistema semplice. Questo è un po'. Quindi voi potete essere partner, cioè se io non sono digitale mi digitalizzate voi? Sì, e poi alla fine questo è un po' quello che possiamo fare con tutti, altri soggetti lo fanno col mondo degli alberghi o col mondo dei trasporti, noi lo facciamo col mondo delle esperienze e delle attività da fare in destinazione e quindi se appunto un soggetto ha un sito che è solo una vetrina, la parte di ti do un calendario con cui puoi prenotare l'attività tanto quanto sul sito di un albergo puoi prenotare la camera, quella parte lì te la diamo noi volendo e te la diamo in maniera molto semplice e gestibile anche da uno che non ha nessuna competenza informatica. Questo è il tipo di offerta che secondo me ha senso fare a questo mercato, non dirgli ti faccio pagare caro la realizzazione di un sito web, ecco, quello non credo che sia una proposizione che nel 2016 ha senso. E questa era la voce di Alessandro Petazzi, che è l'amministratore delegato nonché cofondatore di Musement. Provatela, è un'applicazione gratuita, magari la prossima visita potete sperimentare questi servizi. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra pochissimo. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, potete raggiungermi scrivendo a 2024, scritto in cifra 2024@radio24.it, questa è la nostra email, ci trovate anche su Facebook e su Twitter, cercate Enrico Pagliarini o 2024. Tra poco parleremo di mezzi pesanti, di camion, pensando anche ai tanti nostri ascoltatori professionisti che sulle strade, sulle autostrade ci seguono e sono alla guida di un mezzo pesante. Parliamo spesso di automobili, allora in questa puntata ci facciamo invece una domanda diversa. Che cosa sta succedendo dal punto di vista tecnologico sui mezzi pesanti, sui mezzi industriali, camion e tir? Adesso invece parliamo di alcuni trend tecnologici, sono stati presentati in settimana da Accenture nella Technology Vision 2016 e ne ho parlato con Alessandro Marin, che è responsabile per l'Italia, la Grecia e l'Europa centrale di Accenture Technology. La centralità della persona è chiave, mi sembra anche un bellissimo messaggio portato da un panel di esperti che abbiamo consultato per questa Technology Vision, il fatto che la tecnologia non deve spaventare, perché in certi momenti c'è anche il rischio, la preoccupazione che la tecnologia soverchi l'uomo. Anzi, invece, ultimamente ci sono stati molti allarmi sul fatto che, visto che parlate anche di intelligenza artificiale, soprattutto l'intelligenza artificiale sia un problema per il lavoro nel futuro. Sì. Quello che noi vediamo è che sicuramente bisogna prendere atto che ci sono dei cambiamenti notevoli che stanno accadendo. Questi cambiamenti, come sono accaduti in passato, porteranno, noi lo chiamiamo uno shock culturale, ma non necessariamente lo shock culturale porterà alla perdita di posti di lavoro, porterà sicuramente alla perdita di certe tipologie di professionalità. La cosa chiave su cui ragionare e su cui lavorare è di assicurare per tempo il fatto che le persone, quindi la workforce come noi le chiamiamo, evolva in maniera profonda, assecondando il cambiamento e gestendolo. Voi dite che già oggi, quindi figuriamoci magari fra qualche anno, le aziende cercano determinate professionalità che non trovano. Sicuramente sì. Cioè la trasformazione digitale sta portando a nuove professionalità e anche a professionalità esistenti si chiede di operare in contesti diversi, molto più aperti, non necessariamente specialistici come erano in passato, si richiedono delle doti in termini di apertura, innovazione, flessibilità, agilità, capacità di gestire il cambiamento, che di nuovo non necessariamente erano una caratteristica di qualche anno fa. Tutto questo unito al fatto che stiamo entrando, e i dati lo dimostrano, in un'economia digitale, cioè dove i processi digitali rappresentano già oggi, lo dicevamo nella conversazione che abbiamo avuto precedentemente, il 22% dell'economia complessiva mondiale, avere persone che sono in grado di gestire processi digitali è fondamentale. Da questo punto di vista devo dire che c'è una grande richiesta di mercato di queste tipologie di skill con un'offerta che non è necessariamente allineata. Sì. A proposito, solo un accenno, poi torniamo ai trend che voi avete individuato, solo un accenno all'opportunità per l'Italia. Noi siamo indietro nell'adozione di tecnologie digitali, voi avete fatto un indice di cui abbiamo parlato anche in passato che si chiama di densità digitale, siamo ad un livello basso, però questa è un'opportunità. Beh, è sicuramente un'opportunità, per cui siamo a un livello di adozione, diciamo, nella media bassa, non è disastroso, è nella media bassa, sicuramente si può far meglio e si deve far meglio. Il far meglio non è solo per cambiare, perché il cambiamento è buono, ma perché cambiando si possono aprire nuove prospettive per il nostro paese, vuol dire nuovi mercati, nuovi processi, nuovi clienti, nuovi prodotti. A proposito di trend, parlate di automazione intelligente, questo è abbastanza facile, stiamo parlando di macchine e anche di software, giusto? Sì. Quindi questo è un trend abbastanza chiaro, no? O c'è qualche cosa che non stiamo vedendo? No, stiamo parlando di macchine, stiamo parlando di robotica, quindi stiamo parlando di quello che si chiama cognitive computing, quindi capacità di elaborare in maniera intelligente informazioni, quindi non solo ripetere dei task in modo automatico. Stiamo però parlando anche di strumenti che consentono di ridurre drammaticamente le attività manuali. Quindi stiamo parlando di supporti, noi li chiamiamo supporti, non sostituzione, che consentono di operare a fianco dell'uomo, togliendo una serie di attività che sono ripetitive. Poi c'è un trend che avete definito, io traduco in italiano, economia delle piattaforme. Qua andiamo un po' più sul difficile, cosa intendete? No, beh, per farla facile o cercare di farla facile è che stiamo parlando di un ecosistema aperto. Cosa vuol dire ecosistema aperto? Vuol dire che le aziende, poi anche i consumatori, ma adesso parliamo principalmente delle aziende, operano in un contesto in cui ci sono ambienti più diversi, si parla di cloud, ibrido, private, public. Si parla di strutture applicative che possono essere utilizzate as a service, quindi con modalità di consumo molto diverse dal passato, dove io compravo un software, mi rimaneva per degli anni, mentre oggi lo posso utilizzare a consumo, quanto ne ho bisogno, poi magari l'anno prossimo cambio idea, ne utilizzo un altro. Si parla di scambio di informazioni che sono dell'azienda, quindi con il tema della sensibilità di certi dati, ma anche informazioni che stanno al di fuori dell'azienda. A brevissimo si parlerà di informazioni acquisite dall'internet delle cose. Siamo in una fase iniziale, ma fra un po', seguendo tutti i trend e tutte le proiezioni, quello che stiamo vedendo, i dati che affluiranno da questi device più o meno intelligenti saranno enormi. Allora, la capacità di aggregare in modo intelligente queste informazioni, questi dati, questi applicativi, questi ecosistemi in un unico ambiente o in pochi ambienti che noi chiamiamo piattaforme è chiave. Altrimenti il rischio è che tutte queste fonti di dati, applicativi, informazioni siano gestiti con dei silos. Gestire con dei silos cosa comporta? Il fatto che si perde la capacità di sfruttare le informazioni, e le informazioni sono chiave, sono forse il patrimonio più importante che avremo nel futuro. Si perde la capacità di controllo e governo delle informazioni, quindi la sicurezza, si perde la standardizzazione dei dati. Le piattaforme, ecco, aiutano a gestire in maniera orchestrata tutto questo flusso di dati, informazioni, sistemi che sono i più diversi. E secondo voi questo aumenterà molto nei prossimi anni? C'è un tema legato alla sicurezza informatica, la sicurezza, la cyber security, è un tema di cui si parla spesso. Voi avete accennato ad un trend che per me è nuovo, che fa riferimento ad un uso etico dei dati. Cosa significa? Beh, significa molto semplicemente che le aziende che non faranno un uso controllato ed etico delle informazioni, dove etico vuol dire finalizzato all'obiettivo per cui l'utente o l'azienda ha dato in disponibilità le proprie informazioni, spariranno dal mercato. Quindi lo stiamo vedendo, citavamo dei casi anche nella nostra survey di aziende che con un uso non corretto di informazioni che gli utenti avevano dato loro sono sparite dal mercato, hanno avuto un danno reputazionale di business enorme. Quindi voi dite sarà il mercato a prescindere da tutte le regolamentazioni, le authority per la privacy, eccetera, eccetera. Beh, il mercato ovviamente è il primo segnale che se uno non fa un uso etico delle informazioni non lo evidenzia. Bisogna però anche vigilare. Una delle cose anche che si diceva nella discussione che avevamo avuto in precedenza è che oggi bisogna aumentare la capacità di intercettare il possibile attacco ad informazioni che ci sono nelle aziende, e si registra mediamente un delay temporale tra quando possibili hacker entrano nelle informazioni di un'azienda e nel momento in cui l'azienda se ne rende conto. Ecco, anche la tempestività con cui le informazioni o la perdita di informazione viene rilevata è fondamentale. Quindi non possiamo solo far conto sul mercato che rileva un fenomeno quando è diventato esponenziale. Bisogna tracciarlo all'inizio. Sì. Avete dato un dato molto interessante, anche preoccupante, cioè mediamente ci si accorge di un attacco dopo 8 mesi. Pazzesco, quasi nasce un bambino nel frattempo. Ultimo trend, il più difficile a mio avviso, quindi lo lasciamo per ultimo. Qui non so come fare a tradurlo. Predictable disruption. Cosa significa? Beh, anche questo è un po' una frase, un po' come si può dire... sì, ad effetto, bravissimo. Cioè nel senso che siamo in un grande cambiamento, però è un cambiamento che non si deve subire, perché in questo momento la tecnologia, e torno sul tema della tecnologia, consente all'azienda di cavalcare il cambiamento. Ci sono eventi che accadono e noi siamo passivi, ci sono eventi che accadono abilitati da dei fattori. In questo momento siamo in questa seconda fase. Quindi la tecnologia deve essere uno strumento di evoluzione per le aziende, e quindi da questo punto di vista c'è un cambiamento che l'azienda può governare. L'importante è che ne sia consapevole e che metta in atto le migliori energie che ha all'interno o anche all'esterno affinché questo cambiamento sia pianificato. Quindi questo ultimo trend lo traduciamo dicendo... sfruttare la tecnologia per interpretare il cambiamento e magari prevederlo e governarlo. Per gestirlo. Perfetto, predictable disruption è più breve. Sì. Adesso cambiamo argomento, parliamo di mezzi di trasporto. Parliamo spesso di automobili e nel settore delle auto stiamo assistendo ad una rivoluzione di tanti pezzi di tecnologia, dai sistemi di assistenza alla guida, Negli ultimi anni sono stati introdotti elementi molto importanti, sempre più affidabili, ma parliamo anche di connettività, di infotainment di bordo, tutto ciò in attesa dell'arrivo dei veicoli a guida autonoma che arriveranno, e direi anche molto presto. Non è sicuramente un problema di tecnologia, la tecnologia è già pronta, disponibile, è un problema prevalentemente regolamentare, di questo abbiamo parlato molto molto spesso. Tutto ciò nel settore automobilistico sta accelerando per un motivo, uno in particolare, ma direi il principale: le aziende della Silicon Valley stanno entrando in questo settore, ci sono investimenti molto importanti e quindi i produttori tradizionali di automobili sentono questa pressione e stanno investendo sempre di più, si stanno impegnando in questa direzione. Vedremo che piega prenderà questa competizione, se ci sarà ad esempio collaborazione o ci sarà invece una vera e propria competizione. Questo è un mondo che noi seguiamo da vicino, è sicuramente molto interessante, molto stimolante e continueremo a farlo. Ma in questa puntata ci siamo fatti una domanda: che cosa sta accadendo nel mondo dei veicoli industriali, dei camion, dei tir, dei mezzi pesanti? Ne abbiamo parlato con due ospiti. Iniziamo dai sistemi di assistenza alla guida. Ne parliamo con Enrico Ferraioli, che è responsabile marketing trucks di Mercedes-Benz Italia. Diciamo che tendenzialmente i sistemi di assistenza oggi lavorano in due grandi aree. Una è quella della sicurezza, perché ovviamente i veicoli industriali, che hanno delle masse in gioco molto più importanti rispetto a quelle delle vetture, laddove si dovesse verificare un incidente o una situazione di emergenza, possono portare a conseguenze molto gravi. Quindi tutti i costruttori, e Mercedes in primo luogo, hanno lavorato per creare dei sistemi che possano garantire la sicurezza di marcia di questi veicoli. E quindi questa è la prima grande area. E la seconda è quella dei consumi, perché i veicoli industriali sono dei mezzi di lavoro e i nostri clienti che scelgono i nostri veicoli ci chiedono innanzitutto, chiedono ai costruttori di diminuire i loro costi partendo dal consumo di carburante, e quindi sono stati sviluppati una serie di sistemi di assistenza alla guida che aiutano l'autista a guidare meglio e a consumare meno, tutto a vantaggio della profittabilità dei clienti dei veicoli industriali. Partiamo dai sistemi che aumentano la sicurezza. Quali sono i principali? Allora, sui veicoli industriali troviamo i sistemi di sicurezza che vediamo anche tutti i giorni sulle nostre vetture. Penso all'ABS, all'ESP, quindi controllo della stabilità e gestione della frenata, quindi l'antibloccaggio, che chiaramente sui veicoli industriali sono sistemi ben più complessi, perché pensiamo solo alle masse in gioco, al maggior numero di assali dei veicoli industriali e anche al fatto che i veicoli industriali trainano tendenzialmente, quindi l'ESP deve ragionare anche con uno snodo in più sul veicolo e quindi è un sistema per esempio molto più complesso. Però oltre a questi sistemi base esistono anche dei sistemi molto più avanzati, che sono anche dei requisiti di legge, perché dall'anno scorso tutti i veicoli industriali devono essere equipaggiati con dei sistemi che permettano il mantenimento della corsia, quindi sistemi antisbandamento, e anche sistemi che inneschino una frenata di emergenza in modo totalmente automatico laddove il conducente sia distratto e quindi non abbia percepito un ostacolo fisso o un ostacolo in movimento. Esiste un requisito di legge di base che deve essere soddisfatto e quindi in condizioni di emergenza i veicoli devono essere in grado autonomamente di ridurre la velocità d'impatto fra i 10 e i 50 km all'ora a seconda della situazione e a seconda del tipo di ostacolo rilevato. Senta, se io fossi un pilota o comunque un'azienda che deve acquistare un mezzo un po' più attento alla sicurezza, quindi volessi qualche cosa in più rispetto a quello che è obbligatorio per legge, sappiamo benissimo, questo vale in qualsiasi settore, che quando c'è un obbligo di legge poi la tecnologia offre quasi sempre qualche cosa di meglio. Che cosa posso acquistare? Sì, si può assolutamente andare oltre. Diciamo che guardando i listini di qualsiasi casa costruttrice si trovano dei sistemi che permettono di andare oltre il requisito di legge. E, per esempio, a casa nostra, in casa Mercedes, noi offriamo l'Active Brake Assist 3, che è un sistema equipaggiato da un doppio sensore radar, uno a lungo raggio e uno a corto raggio. Questa tecnologia è estremamente avanzata e permette al veicolo di avere un chiaro quadro della situazione di fronte a sé e quindi di andare a evitare qualsiasi tipo di impatto. Quindi il veicolo è in grado di identificare sia ostacoli fissi che in movimento, e laddove si renda conto che l'autista non sta agendo in modo preventivo e quindi non è andato a innescare una frenata laddove sia necessaria, il veicolo è in grado di frenare in modo completamente autonomo e non di andare semplicemente a mitigare la velocità di impatto, che è quello richiesto dalla legge, ma è in grado effettivamente di fermare completamente il veicolo ed evitare l'impatto. Quindi questo sistema permette di ridurre il numero di incidenti stradali a vantaggio chiaramente dell'impatto sociale degli incidenti stradali, ma sempre anche a vantaggio della redditività dei clienti, perché pensiamo anche un semplice, uno stupido tamponamento, quanto possa impattare laddove ci debba essere un fermo macchina di 1 o 2 giorni. Chiaramente questi sono veicoli con cui i clienti lavorano e quindi avrebbero sicuramente un impatto economico. Certo, ma immaginiamo che se tutti i veicoli fossero già equipaggiati con queste tecnologie, quindi da oggi ci fossero solo veicoli nuovi, il numero di incidenti sarebbe drasticamente ridotto. Assolutamente, assolutamente sì, e infatti questo è uno degli aspetti che sia noi che la nostra rete di vendita curiamo costantemente quando siamo in trattativa con i nostri clienti o quando ci capita di fare degli eventi dimostrativi in cui facciamo provare i nostri veicoli. Noi diamo sempre grande risalto a queste tecnologie perché siamo convinti che sia uno dei compiti delle case costruttrici avere una responsabilità e fare il massimo affinché i clienti scelgano i veicoli più giusti, i veicoli siano sempre più nuovi, sempre più sicuri e sempre più equipaggiati con queste tecnologie che già oggi esistono, ma molto spesso non vengono scelte dai clienti perché semplicemente non le conoscono. Certo, sì, ma vale anche per le automobili. In effetti, quando uno prova queste tecnologie sembrano incredibili, ma funzionano oramai molto, molto bene, sono molto, molto affidabili. A proposito di consumi, quali sono le tecnologie che sono state introdotte? Allora, il consumo è un elemento fondamentale per i veicoli industriali, è il primo motivo d'acquisto dei nostri clienti. I clienti scelgono sulla base del livello di consumo di carburante, quindi nel tempo sono state introdotte moltissime tecnologie. Tutto gira ovviamente intorno al motore innanzitutto, quindi il motore dei veicoli industriali oggi è un concentrato di tecnologie volte a migliorare i flussi termodinamici, migliorare l'efficienza e quindi già avere un consumo di base molto buono. È chiaro che come guida l'autista influenza notevolmente il consumo di carburante del veicolo, lo notiamo tutti i giorni con le nostre vetture, se ho una guida aggressiva, sportiva o una guida rilassata e previdente, chiaramente i consumi variano. Noi abbiamo introdotto dei sistemi di assistenza all'autista proprio per aiutarlo a migliorare il suo stile di guida o a non doversi proprio preoccupare di come gestire il pedale dell'acceleratore. In particolare abbiamo un sistema che si chiama controllo predittivo della catena cinematica, che è esclusivo dei veicoli industriali. Questo sistema non esiste sulle vetture oggi. E che cosa fa essenzialmente? Dà praticamente gli occhi al veicolo, perché il veicolo ha dentro di sé, memorizzata in una centralina, una cartina topografica tridimensionale di tutte le strade europee, copre circa il 99% delle strade. Quindi il veicolo sa già l'altimetria del percorso che dovrà andare a percorrere e quindi sa in anticipo se ci sarà una salita, una discesa, un avvallamento. Sapendo in anticipo quello che c'è davanti, è in grado di gestire tutta la catena cinematica, quindi è in grado di gestire l'erogazione del gas piuttosto che il cambio, inserendo subito la marcia corretta, piuttosto che il sistema frenante e il rallentatore. E quindi tramite un computer di bordo che analizza la posizione GPS del veicolo e la topografia del percorso che dovrà fare, calcola qual è la configurazione migliore e tutto questo ovviamente con l'obiettivo di minimizzare i consumi. Quindi se io sto procedendo col cruise control inserito e la macchina sa che poi ci sarà una discesa, già prima della discesa la macchina si prepara. Esattamente, perché normalmente se io ho il cruise control inserito e l'ho inserito a 80 all'ora, che è il limite di velocità in autostrada dei veicoli industriali, normalmente che cosa succede? Che se c'è una pianura seguita da una discesa, il cruise control dà gas fino all'inizio della discesa per tenere gli 80 all'ora. Sulla discesa il veicolo industriale ha molta inerzia, tenderebbe a prendere velocità e a superare gli 80 all'ora e il veicolo inizia a frenare. Quindi questo non è un comportamento previdente per quanto riguarda i consumi, perché non viene sfruttata l'energia che mi darebbe la discesa. Con il sistema predittivo della catena cinematica, il mio veicolo sa già che ci sarà una discesa e quindi che cosa fa? Lascia il gas prima. Anche se io ho impostato 80 all'ora, il controllo predittivo della catena cinematica permette al veicolo di scendere, di diminuire la velocità rispetto agli 80, quindi qualche centinaio di metri prima dell'inizio della discesa il veicolo smetterà di dare gas, la velocità scenderà intorno ai 75 km all'ora e questi 5 km all'ora verranno poi recuperati nella discesa e quindi tutto questo a vantaggio del recupero dell'energia cinetica e a vantaggio anche dei freni che non verranno usurati nella discesa come sarebbe successo con un cruise control tradizionale. Sì. Le faccio un'ultima domanda guardando al futuro. Ovviamente ogni anno questi sistemi o vengono migliorati o ne vengono introdotti di nuovi per rendere la gestione, l'assistenza alla guida sempre più precisa. Però l'obiettivo finale lo sappiamo per le automobili ed è così anche per i veicoli industriali e la guida autonoma. Le vostre previsioni quali sono? Allora, il nostro gruppo ha già presentato due veicoli a guida autonoma. Uno è un prototipo, è marchiato Mercedes, si chiama il Future Truck 2025. È un veicolo che ha già percorso alcuni chilometri in modalità completamente autonoma qui in Europa, chiaramente in zone di test, quindi non su strada aperta al pubblico. Un secondo veicolo invece è effettivamente immatricolato e circolante in Nevada. È un veicolo marchiato Freightliner, che è un altro dei brand del nostro gruppo. Il veicolo è effettivamente immatricolato perché ha ottenuto l'autorizzazione dalle autorità del Nevada a circolare anche su strade aperte al pubblico, quindi adesso è impegnato in alcune fasi di test su strade aperte al pubblico. Quindi la tecnologia per la guida autonoma effettivamente già oggi esiste, perché è basata su una combinazione di sistemi radar e telecamere che permettono al veicolo di percepire l'ambiente circostante. Quello che manca oggi è l'infrastruttura normativa, quindi la previsione per l'Europa sta nel nome del nostro prototipo, l'abbiamo chiamato Future Truck 2025. Prevediamo che ci vorranno circa 10 anni perché la guida autonoma sui tratti autostradali diventi una realtà e diventi parte della quotidianità dei nostri clienti e quindi dei nostri autisti. C'è poi l'altrettanto interessante capitolo della connettività di bordo. Anche in questo caso ci sono da dire molte cose, molto sta succedendo e sicuramente molto vedremo nei prossimi anni. Ne abbiamo parlato con Fabio Pellegrinelli, che è il responsabile prodotto e marketing dei veicoli medio-pesanti di Iveco Italia. Sì, la connettività sui veicoli pesanti è un'esigenza che si è manifestata da diversi anni sul mercato, legata principalmente al monitoraggio delle prestazioni del veicolo e tutto finalizzato a migliorare al massimo l'efficienza di tutta la flotta. Ci sono diverse funzionalità ulteriori legate alla connettività. Come Iveco, il nostro sistema si chiama Ive Connect, che integra tutta una serie di funzionalità sia di telematica per la gestione della flotta, quindi mette in comunicazione il veicolo con la centrale operativa, sia altre funzionalità legate al supporto al guidatore, quindi all'autista che si trova in cabina. Quando parliamo di monitoraggio e gestione della flotta, che potrebbe addirittura essere anche una flotta di un veicolo, poi ovviamente se sono più veicoli la tecnologia rende più efficiente il tutto, a che cosa facciamo riferimento? Ci può fare anche degli esempi di quello che si può fare? Sì, certo, il dispositivo per la gestione della flotta tramite la telematica consente al gestore della flotta che sta in ufficio di localizzare in maniera precisa e puntuale tutti i veicoli, quindi sapere dove sono, che percorso stanno facendo e partendo da queste informazioni base ottimizzare i viaggi di ogni singolo veicolo per migliorare l'efficienza di tutta la flotta. Senta, normalmente se guardiamo oggi il mercato, la tecnologia è disponibile, ma viene anche utilizzata, cioè fatto 100 il numero di flotte di aziende che gestiscono un parco veicoli, questi software per la gestione, ottimizzazione, monitoraggio dei mezzi su strada viene utilizzata o sono ancora poche le aziende che lo fanno? Negli ultimi anni il numero delle aziende è salito in maniera esponenziale e è largamente diffuso l'utilizzo di sistemi di gestione telematica delle flotte. Quindi tanto più grande la dimensione dell'azienda, tanto più è, non dico certo, ma quasi che l'azienda utilizzi un sistema per la gestione della flotta. Sì. Senti, questo sistema che altro fa? Cioè, oltre a monitorare, quindi a sapere dove si trovano i veicoli, a poter, immagino, vedere anche lo stato del veicolo, ci sarà una sorta di diagnostica dello stato del veicolo e poi la gestione appunto dei percorsi, che cosa fa? Allora, il nostro sistema, quindi Rive Connect, integra sia la parte di gestione telematica della flotta, quindi la comunicazione veicolo centrale operativa del trasportatore, sia altri servizi di supporto alla guida. In primo luogo un navigatore con le mappe dedicate specifiche per i camion, la parte di gestione, quindi telefonia, quindi viva voce Bluetooth con il telefono smartphone dell'autista e come supporti avanzati alla guida un tutor che fornisce sul display tutte le indicazioni all'autista per guidare al meglio, sfruttare al meglio le performance del veicolo e alla fine di ogni percorso viene anche dato un punteggio all'autista che può essere poi esploso e l'autista stesso può andare a vedere quali sono gli aspetti su cui può migliorare e quali invece sono già al massimo livello. Sì. Senta, in caso di emergenza questo sistema viene in aiuto in qualche modo? Allora, il sistema viene in aiuto anche in questo senso all'autista perché integra la funzionalità AMS 24 ore di Iveco, che sarebbe l'assistance non stop, cioè l'autista sul display ha un pulsante specifico tramite il quale può attivare una chiamata di emergenza indirizzata al nostro call center che fornisce l'assistenza, che è la centrale operativa che coordina tutta l'assistenza stradale ai veicoli Iveco e la chiamata partendo da un sistema evoluto come Rive Connect di fatto può dare già la diagnosi dell'eventuale problematica che si è verificata sul veicolo, ma anche, e questo è molto importante per ridurre i tempi di intervento, la posizione legata ovviamente alle coordinate tramite il GPS e quindi al nostro call center che poi può fornire tutte queste informazioni in tempo reale all'officina che fa uscire l'officina mobile per andare in soccorso dell'autista. A proposito di chiamata d'emergenza, allora sapete che dal marzo del 2018 su tutte le automobili che verranno vendute all'interno dell'Unione Europea sarà obbligatorio inserire un sistema che è stato denominato, definito e-call, e-call, cioè emergency call, chiamata d'emergenza. Questo sistema su tutte le automobili prevede che se in caso di incidente il sistema chiami automaticamente, anche quindi nel caso uno svenga o addirittura succeda qualcosa di peggio, chiami automaticamente il soccorso e invii ai servizi di soccorso le informazioni di base, quindi il luogo dove è avvenuto l'incidente, l'orario, eccetera. Questo sistema al momento mi risulta non sia previsto per i mezzi pesanti, quindi vedremo se ci saranno delle evoluzioni, quindi saranno poi i produttori che eventualmente in alcuni casi metteranno a disposizione un servizio analogo, però non c'è un obbligo di legge al momento. Bene, tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, come sempre grazie per tutti i messaggi che ci inviate, che mi inviate all'indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.